Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sono le 21, passate da un minuto, di nuovo insieme ad Agostino Spolaore e come di concetto di nuovo insieme anche con il suo compagno di tutte le trasmissioni, cioè Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa è Blue Radio Veneto e anche oggi, giovedì 5 settembre 2013, un live, una situazione in acustico con una cantante che ci raggiunge dalla Toscana, che la presentiamo tra qualche istante, si chiama Liana Marino. Ciao intanto, benvenuta. Buonasera, buonasera. Allora, prima di cominciare questa serata dedicata alla musica di qualità, di classe, insomma, quella che propone Liana, i nostri dati tecnici, ovvero sia le nostre frequenze, 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Poi ancora il nostro numero telefonico, quello in studio, lo 049-875-6423, mentre per i vostri sms, vi ricordo, il 346-2320-033. Il nostro sito www.bluradioveneto.it, ci potete ascoltare in streaming 24 ore su 24, ovviamente quando volete, insomma, oltre a leggere tutte le varie informazioni e anche le recensioni che mettiamo sugli artisti. Questa sera potete tranquillamente trovare anche quello di Liana Marino, appunto, e poi ci saranno anche tutti i podcast, anche a ritroso, anche negli anni passati. Basta solamente avere un po' di pazienza, digitale nell'artista che vi interessa e potete scaricare e ascoltare o ascoltare gratuitamente ogni qualvolta lo desiderate fare, insomma. Questo è quello che potete trovare nel nostro sito, cioè ve lo ricordo ancora, www.bluradioveneto.it. E poi le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, dove trovate tutte le informazioni inerenti alla musica rock e non solo, e ovviamente tutte anche lì gli eventi che facciamo noi in questa emittente, cioè i live, così i famosissimi live che vanno in onda tutte le settimane, 3-4 volte anche la settimana. E ovviamente il giovedì dalle 21 alle 22.30 c'è quello con Agostino, con Maurizio e con un artista, come dicevo all'inizio, con Liana Marino questa sera. Allora, intanto, benvenuta a Blue Radio Veneto. Beh, grazie di avermi invitato e di avermi ospitato, grazie anche di questa presentazione così carina. Hai fatto un buon viaggio, Liana. Sì, è stato un buon viaggio, sì. Tutto a posto, sì. Tutto bene, sì, poi sono arrivata in questa bellissima città che è Padova. E... l'avevi mai vista prima? Ma in realtà no, cioè ci sono stata di passaggio e non l'ho mai visitata come si deve. Devo ritornare. Con calma, magari abbiamo qualcosina da vedere, non tantissimo, ma qualcosa c'è di interessante. Beh sì. A cominciare dalla Basilica, il nostro fiore all'occhiello, la Basilica di Sant'Antonio. Beh, tornerò. Bene, cara Liana, sei qui stasera perché devi parlare intanto del tuo progetto musicale, che si estrinse con questa pubblicazione di questo EP autoprodotto, La Grazia e l'Eleganza. Ma Liana, che è molisana d'origine, anche se è toscana d'adozione, esatto. Quindi nel Molise hai studiato alla scuola jazz Teolius Monk, il jazz che cosa ha nel tuo DNA? Poco? Però c'è qualcosina. Ma in realtà è un po' una responsabilità questa ora di parlare del jazz, perché non credo mi appartenga tanto, però ho fatto questa scuola che si chiama Thelonious Monk, che è un nome molto importante. Un nome tutelare. È un nome importante, però in realtà quando ho iniziato con la chitarra classica, con un percorso molto lento, e poi dopo qualche anno il mio maestro, che è un bravissimo jazzista, che si chiama Nicola Cordisco, mi ha proposto di iniziare un approccio al jazz. A me era sempre piaciuto, ma mi sembrava talmente difficile, talmente lontano dalle mie capacità, che non, mi vergognavo proprio a proporglielo. E poi quando me l'ha proposto lui ho accettato subito, quindi ha cominciato a insegnarmi un po' di cose, però purtroppo io poi ho iniziato l'università, quindi sono andata via da Campobasso e ho interrotto questo percorso con lui. Ho cercato di continuarlo da sola, però era come prima, chiaramente. Non era come prima, quindi io ho avuto da lui una base che poi hai sviluppato, che poi, in una certa maniera mi ha permesso forse di sviluppare delle cose dopo, di sperimentare un po' di accordi, di giri d'accordi che magari non sono proprio quelli standard della musica leggera. Comunque la mia è musica leggera, non è... Sì, possiamo dire musica pop, tra virgolette. Sì. Non propriamente leggera, perché leggera qualche volta c'è il sinonimo di bassa qualità. Forse anche se non è, sì, anche se non è vero assolutamente, però il pop è già una cosa diversa. Pop vuol dire popular, quindi chiaramente si estrinseca a 360 gradi, possiamo dire così. Poi hai cominciato questo percorso, ti ha portato a Firenze. Firenze è una città molto viva musicalmente, era almeno musicalmente. Ma è un po' così, Beh, vabbè, no, quindi questo percorso mi ha portato a Firenze. In realtà io sono arrivata a Firenze sempre per studio, come mi sono spostata da Campobasso per studio, per fare l'università. Sono stata a Napoli, ho vissuto a Napoli, quindi ho girato l'Italia. Background meridionale. E poi sono andata a Firenze per continuare gli studi, e poi lì comunque ho avuto la possibilità di suonare un po', di conoscere un po' di musicisti, e poi in realtà il mio percorso nel cantautorato è iniziato con un amico, un mio collega che scrive delle canzoni molto belle. Lui si chiama Omar Filippi, che è tra l'altro presente anche nel disco, nell'EP, e lui scrive delle canzoni molto belle. Mi piaceva molto quello che mi faceva ascoltare, quindi gli ho proposto di suonare assieme e di arrangiare le sue canzoni. Quindi poi mi sono un po' ho iniziato a suonare le sue cose, ad arrangiare le sue cose, a mettere una controvoce. Ci è piaciuto molto, e poi piano piano lui ha fatto uscire anche le mie cose, perché poi c'erano ma erano nascoste, quindi io non pensavo che l'avrei mai fatte ascoltare a qualcuno. E poi lui a un certo punto mi ha detto: basta, ora devi... Scrivi moltissimo tu, di tuo, voglio dire. Ma no, non ho scritto tantissimo, no, ma perché forse, cioè, ci penso molto prima di scrivere, non riesco a scrivere di getto, quindi mi piacerebbe scrivere di più, però forse ragiono troppo, e quindi poi quello che rimane scritto è poco. Di idee ce ne sono tante, però poi è difficile magari metterle assieme come mi piacerebbe. Allora aspetto il momento giusto, l'ispirazione, per assemblare le idee che diano poi le... Senti, vogliamo già rompere il ghiaccio, facciamo ascoltare qualcosa dal disco. Sì. La traccia che dà il titolo, la title track a questo disco, La Grazia e l'Eleganza. Ci vuoi dire qualcosina su questa canzone? La Grazia e l'Eleganza è la prima canzone che ho scritto, che l'ho scritta tanti anni fa, e questa è una canzone che non pensavo che mai qualcun altro al di fuori di me la potesse ascoltare, la potesse sentire. Sì, non ci pensavo proprio, e poi è stato questo mio carissimo amico che mi ha spinto. E quindi poi proprio per questo ho deciso di farla, che diventasse proprio la title track dell'EP, perché insomma è stata un po' è stata poi quella che è andata avanti prima delle altre, e poi si è portata dietro altre quattro canzoni che sono entrate in questo EP. Io spero che ti spinga ancora questo tuo amico a fare anche il prossimo disco con la grazia e l'eleganza di questo. Grazie, speriamo. Ascoltiamo allora la traccia che apre questo disco di Liana Marino, cioè La Grazia e l'Eleganza. Sarà la nebbia che mi copre gli occhi, avvolge l'anima. Sarà il pensiero triste, un'incurabile malinconia. Vorrei lottare per degli ideali fermi e logici, ma mi arrendo se poi non ci credo in fondo più di tanto. Guardo impassibile il flusso che passa implacabile intorno. Sfuggo nevrotica al tempo che passa e trasforma. Ma come posso io cambiare il mondo che mi soffoca, se non riesco neanche a staccarmi dalla TV? E stiamo confondendo la realtà con uno show. I sentimenti ormai si vendono al migliore share, a ad uno si dispensano buoni intentimenti. Per una lacrima che versi io ti esaudirò, per una lacrima che versi io ti esaudirò, per una lacrima che versi io ti esaudirò il tuo più grande sogno, credi a me. Sarà la rabbia che mi appanna gli occhi, avvolge l'anima, l'egoismo che regna sovrano in quest'infima società. Ma farò in modo che questi pensieri legati al collo, che spingono in basso senza controllo, ogni giorno di un peso li scrollerò. E sarà come aprire gli occhi e svegliarsi di un tratto, capire il senso della vita che sapore ha, vivere con la leggerezza dell'ingenuità. Sarà la grazia, l'eleganza che ci salverà, sarà il ricordo della purezza che ci salverà, sarà il pudore, l'innocenza che ci salverà, sarà il richiamo della coscienza che ci salverà. Sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà. Della purezza che ci salverà, sarà il pudore, l'innocenza che ci salverà, sarà il richiamo della coscienza che ci salverà. Sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, la grazia e l'eleganza, Liana. Tra l'altro vi racconto brevemente come è nata l'idea della grazia e l'eleganza, che mi sono ricordata ora. Perché mi sono ricordata ora? Io l'ho scritto tanti anni fa, quindi poi insomma ogni tanto me ne dimentico. Però siccome questa è anche una canzone in un certo senso di denuncia, anche se non è proprio diretta, però è anche una canzone che parla un po' male della televisione, di come si sono sviluppate poi le trasmissioni televisive, anche un po' in maniera un po' troppo superficiale. E quindi c'era un po' il contrasto, guardando proprio la televisione, c'era il contrasto di queste trasmissioni dove ci sono donne nude in qualsiasi trasmissione, perché comunque inquadrature un po' particolari, perché devono fare audience. E poi a un certo punto, facendo zapping, vedo in televisione, perché ogni tanto in televisione danno anche delle cose belle, c'era un balletto bellissimo con dei corpi femminili molto belli, con delle tute aderenti, quindi il corpo si vedeva molto bene, però era anche sensuale il corpo che si vedeva, però non era per niente volgare, ed erano questi corpi che si muovevano con questa musica bellissima che io non ricordo, però erano proprio eleganti, graziosi. E quindi proprio in quel momento mi è venuta l'idea che in effetti guardare quei movimenti di quei corpi così, così belli ed eleganti ti faceva stare bene, quindi non necessariamente uno si deve fermare a guardare una trasmissione soltanto perché c'è l'inquadratura particolare di una bella velina, o però anche guardare un bel balletto che ti dà sicuramente qualcosa di più. E poi rimane, a me è rimasto poi per tanti anni ed è rimasto impresso poi in questo CD, quindi... Quindi hai praticamente ricordato questo episodio e l'hai musicato per dire. Beh sì, poi sarà la grazia e l'eleganza che ci salverà. Questo poi è stata la cosa giusto. Sì, che poi forse un messaggio troppo positivo, non so, magari troppo... Ma bisogna essere sempre positivi, giusto? Altrimenti... Sì, magari sembra un po' utopica come cosa, però in realtà sì. Ma tu sei anche una ragazza positiva, sei solare. Beh sì. No, ma poi in realtà quello che ho scoperto, perché poi uno scrive le canzoni e poi dopo scopre delle cose su di sé, è che magari scrivo delle cose che possono essere un po' negative, però poi devo mettere un lieto fine, comunque, in qualche modo, che sia una speranza, che sia qualcosa, però deve andare a finire in qualche modo bene. Qua ci sono le chitarre acustiche. Io ho scritto leggermente, noi della redazione più che io, ho scritto leggermente che viri leggermente verso la musica sudamericana come impostazione vocale. Non so se secondo te è giusto quello che ho scritto, quello che noi abbiamo interpretato questa sera. Può darsi. Leggermente, non così, sì. In modo no, pesante. può darsi perché comunque è folk, in ogni caso il folk è la matrice, un folk tra virgolette, poi tu la sviluppi virando, non in modo pesante, ma virando verso ambienti, immagini sudamericane, musicali, sempre musicali. Sì, può darsi che sia così, perché comunque avendo ascoltato molto quella musica, ascoltandola tuttora molto, e probabilmente anche inconsciamente prendo degli elementi che facciano parte della musica, del modo di suonare, oppure insomma un po' lontano da me, però del modo di cantare probabilmente c'è qualcosa, e forse nelle cose che faccio ci sono un po' delle influenze varie di tutto quello che ho ascoltato, certo, fino adesso, secondo me sì. Probabilmente sì, questa cosa così. non è sbagliata. Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che la prima volta Agostino è diventato anche fotografo per la prima volta questa sera, per la prima volta, grazie alla mancanza mia che ho dimenticato una macchina fotografica a casa. Ma sono cose dal vivo anche questo, dalla live, regia alla fotografia. È un live anche questo. Adesso ritorna alla regia. Sono belle cose anche sì, questo. Sì, fa sì. Parte dello spettacolo, sì, parte sì. Del live anche questo, del 21 e 19 di questo giovedì. Almeno di settembre. Un ricordo. Esattamente, un bel ricordo. Poi sarai frustato fuori. Sì, esatto. Ok. Allora, Liana, questo disco è uscito ad aprile di quest'anno. Ad aprile, sì. È stato, come si suol dire, un parto lungo o... Ma ci hai faticato molto, voglio dire. È stata una fatica più che altro mentale. Mi sono dovuta convincere che dovevo fare questa cosa, che magari poteva piacere, perché poi uno fa le cose un po' per sé, un po' per gli altri. E quindi, vabbè, la soddisfazione personale c'è stata, e quindi l'obiettivo per me l'ho raggiunto. Però poi il dubbio era farlo per gli altri, quell'altra parte lì, come andrà. E quindi... È andata bene secondo noi, anche secondo chi ti ha sentito. Io vi ringrazio, insomma, speriamo che insomma venga conosciuto abbastanza, ecco. Queste voci che si rincorrono, cari ascoltatori, sono le voci di Liana che si rincorrono una dietro l'altra, leggermente. Sì, questo è una... È una bella sensazione, perché la doppia voce è sempre una bella sensazione, secondo me. Da un certo fascino, da un certo... Sì, piacevole, ecco, possiamo dire questo. Ah, bene. Ma sai, poi in tempi di crisi uno si deve arrangiare. La voce c'era, allora ho deciso di chiamare la stessa cantante che ha fatto la voce principale e le ho chiesto se poteva fare anche le controvoci. Lei gentilmente ha accettato. Allora... È un disco autoprodotto questo. È un disco autoprodotto, autogestito. Quindi se c'è qualche etichetta interessata, magari. Sì, ne possiamo parlare, ecco. Sì. Spendo due parole per il disco, così ricordo anche le persone che ci hanno lavorato. Certo. E beh, questo è un disco piccolo, perché insomma un EP con 5 brani, piccolo di numeri, di numero, ma grande di contenuti. Ma è solo l'inizio, comunque. Esatto. Non vi preoccupate. Sì. E quindi è per buona parte, per una buonissima parte, più della metà, il lavoro è fatto da donne, a parte, vabbè, io che ho, vabbè, sono l'autrice delle canzoni, poi ho suonato per la maggior parte delle, insomma, tutti i tre quarti di disco è suonato da me, e poi è stato registrato da Azzurra Fragale, buona parte, registrato da Azzurra Fragale, che è una... un bravissimo tecnico del suono, che ha uno studio di registrazione nel Val d'Arno, in Toscana, bellissimo posto. E tra l'altro la sala di registrazione è anche un po' la sua dimora abituale, quindi è una specie di bed and breakfast, una specie di record and dinner, mettiamo. Ecco, possiamo dirlo così. Come Maurizio, come Maurizio, che è qui, il suo bed and breakfast è qui, vero? Sì, esattamente, la mia seconda casa, forse la prima anche. E quindi insomma da lei si sta particolarmente bene, si lavora bene, e quindi sono venute fuori queste canzoni. Invece poi la copertina è di Agnese Matteini, che è una bravissima artista fiorentina, che è una mia carissima amica ed anche una bravissima pittrice, illustratrice, disegnatrice, questo sembra uno scioglilingua, e quindi mi ha regalato questa sua opera, che è un po' una copertina sottomarina. Lei, ascoltando il disco, ci ha visto molto mare. In realtà è vero, c'è molto mare. Allora mi ha regalato questa copertina marina, che ho trovato molto bella. E tra l'altro è stata in quella fase in cui ho pensato che magari questo disco forse non era il caso di non farlo uscire, e quando lei mi ha dato questa copertina ho detto: va bene, questo disco dovrà uscire per la tua copertina. E quindi ed è, sì, questo. Ma perché ti è venuta questa titubanza? Ma perché magari poi nei progetti, qualsiasi progetto si porta avanti, c'è l'entusiasmo iniziale e poi c'è quella parabola, e poi c'è il calo, e quindi c'è stato anche per me il calo, che magari succede per qualsiasi cosa, e quindi lo scoraggiamento, perché poi magari, come quando prepari un esame, all'inizio ti sembra che vai benissimo, poi quando sei all'ultimo pensi di non sapere niente, l'esame non vuoi andare a farlo. Allora... Beh, ascolta, quando tu vedi il disco tuo, sì, ci vedi Diana Marino dentro? Ma sì, ora. E allora ora è un figlio tuo, quindi sì, è giusto. Sì, ora che... mi ci sono immersa. Ecco. No, ma poi quando ho superato quella fase così un po' negativa, poi ho... Pronta per i prossimi, insomma. Ma devo... Sì, sono pronta. Sai che poi devi presentare i prossimi dischi, vero? Certo, io ho già pronto un biglietto. Ecco, sì. Senti, ho visto che casualmente hai una chitarra. Certo, sì. Cosa ci fai ascoltare allora, per rompere il ghiaccio anche dal punto di vista acustico proprio? Allora, vi faccio ascoltare Favola, che è una canzone che non è presente nella... Ma inedita per sì, noi, anche per gli ascoltatori, sì, chiaramente. E quindi l'ascoltiamo anche noi per la prima volta. Sì, questa, quindi io prima dicevo che c'è sempre un lieto fine nelle mie canzoni, e questa anche è un lieto fine, però un po' particolare. Cioè Va bene, poi magari ne parliamo, ok? Sì. Dolce placida anche questa notte, lenta e silenziosa scende già. Poche luci sono ancora accese, fidanzati dediti ad amar. Lei è la principessa senza regno, aspetta il principe che crede arriverà. Ma il cavallo bianco si è stancato e questa volta lui ha deciso dormirà. Di rovinar la festa ad un innamorato non gli importa, vuole solo riposar. Ma il principe che l'ama così tanto prepara in vano il suo cavallo bianco. Ma questo sbuffa e scalcia fino a quando il principe si arrende e lascia fare. Ah, le storie belle vanno conservate, l'amore mio lo devo incontrare. E col berretto sulla testa regale aspetta solo alla fermata del tram. Ma i minuti scorrono veloce, questo appuntamento tarda ad arrivare. lancette corrono insistenti, nervoso batte il piede sulla terra e aumenta il broncio della principessa, alzando i tacchi a passo lento se ne va. E camminando trova la fatina che le dice: dolce cara, lascia stare. E credendo di darle buon consiglio, l'ammonisce ed incomincia a predicare. Ah, questi uomini son proprio dei bastardi, dimenticaro a prova, respira. Dall'altra parte della strada corre il principe veloce come il vento. Ma giunto al luogo dell'appuntamento non trova la sua amata ad aspettare. Ma la desolazione passa in un momento, lontano non può certo essere andata. Come in ogni favola che esiste anche stavolta si conclude il lieto fin. Si rincuora pensando a lei che lo perdona e si incammina a casa a riposa. Certo il suo castello e pensa di fermarsi alla locanda. Vicino alla finestra sente musica e si accosta per potersi ristorare. La sua bella principessa è lì che balla con la fata, sembra non avere problemi. Sembra proprio contenta e soddisfatta, non ha obblighi e doveri a cui pensare. Balla e canta e ride ora che è libera, non ho più pensieri né preoccupazioni. Balla e canta e ride ora che è libera, non ho camicie da stirare. Bella, interessante, è la prima volta che noi la sentiamo, quindi è anche bello, il cantato è molto popolare in alcuni momenti, non tradizionale come cantato, sei andato un po' su come vocalità, poi sei ridiscesa. Interessante questo discorso di vocalizzo, come mai hai voluto fare questo vocalizzo stasera? Perché la canzone si prestava a questo praticamente. Beh sì, in realtà non è che ci ho pensato. Ah, non c'è pensato? No. Esattamente. No, è andata così, sì. Beh, è andata bene secondo me. E ora, sì, ora che me lo fai notare non noto questo... Ha un progetto, questa canzone ha un progetto, era stata costruita in una certa maniera, è stata lasciata fuori dall'EP per motivi diversi oppure... Sarà presente in un prossimo progetto che tu Ma farai? Sicuramente sarà presente in un prossimo progetto. Ora volevo realizzare un EP, che è una sorta di presentazione, quindi e quindi sono state scelte queste canzoni un po' per caso in realtà, perché poi tutte le canzoni che ho scritto mi rappresentano fortemente, quindi non è che ho voluto lasciare fuori qualcuna per qualche motivo, per una serie di circostanze varie, poi queste qui sono andate avanti, quindi poi ho scelto queste. Però questa canzone che ho appena fatto, si intitola Favola, sicuramente è un lieto fine un po' particolare. Un lieto fine particolare perché poi per la principessa, sì, certo. Principessa. Beh, lei scopre la libertà e quindi ma non so, quando ho scritto questa canzone non so perché ero un po' femminista, non so, quindi avrò pensato sì. Che si sta meglio da sole, non lo so, e quindi il povero, che poi in realtà questo principe è anche un personaggio positivo, non sì. Purtroppo lui l'ha pagata per quelli che sono stati che si sono comportati male, è stato lui il capo espiatorio praticamente. Sì. E quindi è andata così, però è un principe, quindi troverà la sua principessa. Ah, sicuramente. Com'è la situazione lì in Toscana per quanto riguarda la musica? Beh, io non so parlare, non so quanto posso dire, però beh, c'è un bel movimento, ci sono sicuramente dei bravissimi musicisti, molto validi di qualsiasi genere musicale. Sia cantautori che gruppi rock sono davvero bravi. E poi io ho fatto un concorso in Toscana, che è un concorso organizzato da un'associazione che si chiama Toscana Musiche ed è patrocinato anche dalla regione Toscana, quindi comunque è un peso. Beh sì, comunque e io ho potuto partecipare perché oramai sono toscana, quindi sono rientrata in questa e beh, quindi questo è molto importante perché comunque ci sono anche dei finanziamenti regionali per promuovere la musica emergente, e quindi facendo questo concorso io ho avuto la possibilità di vedere da vicino un po' come funziona almeno questa parte qui. Poi, e poi in Toscana ci sono tanti festival, soprattutto in tutta Italia ci sono tanti festival. Ora, vivendo in Toscana per la maggior parte del mio tempo, comunque ho visto quella realtà lì, conosco un po' quella realtà lì, e ci sono tante cose. Comunque ha una tradizione musicale che alle spalle, che è molto importante, molto lunga anche da un punto ma di vista. Ma ci sono i locali che danno lo spazio agli emergenti? Ma ora a Firenze, io sono a Firenze, vedo che ne stanno aprendo di più di locali. Qualche volta c'hai l'accento toscano, eh? Sì, qualche volta viene fuori. A volte mi confondono. Dicevi, sì. Ti hai interrotto, scusami. No, niente. E quindi, beh sì, forse adesso, ultimamente non ci sono stata tanto, quindi non ho vissuto tanto la musica dal vivo nei locali, però ci sono diversi locali che hanno aperto. Ora non so in realtà quanto riescano a promuovere la musica emergente, perché poi se non sei conosciuto magari è difficile poi che ti chiamino e ti facciano. Certo, questo è vero. Quindi boh, magari io inviterei anche i gestori dei locali ad essere un po' più aperti, anche perché poi insomma gli sconosciuti, se li fai conoscere, poi piacciono, no? È chiaro. Quindi, tu hai detto prima che sei stata qualche tempo a Napoli e tra l'altro hai aperto, cioè, un concerto della NCCP oltre ad altri gruppi, anche Nuova Compagnia di Canto Popolare, praticamente hai aperto, cioè, l'apertura, poi sono venuti a suonare anche nei CPP nello stesso giorno, nello stesso palco. Nuova Compagnia di Canto Popolare, tutti se la ricordano, la grande compagnia, ma ancora esiste, ancora si sviluppa? Beh, esiste, la formazione è diversa rispetto agli origini, a Tamuriata Nera, quella famosa. È un po' diversa, però è un po' diversa, ma l'impronta è sempre quella, la voglia è sempre quella. E poi poi vabbè, c'è Fausta Vedere, che è storica della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Beh sì, sono ancora. E poi tu hai aperto anche i concerti di Fausto Mesolella, che è quello di Ave Entrave, del chitarrista bravissimo degli Ave Entrave, perché essendo io chitarrista, in realtà quando ho ascoltato lui per la prima volta e non era ancora chitarrista, io ho pensato che sarebbe stato molto bello suonare la chitarra come lui. Poi il mio mito come chitarrista era Pino Daniele. Certo. E insomma, e quindi insomma, Fausto Mesolella, quando poi ho saputo che avrei aperto il suo concerto, per me è stato il massimo. Beh sì, ero veramente emozionata, perché poi davvero come suona lui la chitarra mi piace tantissimo, e quindi insomma è un bel punto di riferimento. E comunque tu ami Pino Daniele, però il blues non lo trovo nei tuoi riferimenti. Forse è un blues nascosto, io non l'abbiamo sentito in qualche tuo pezzo, probabilmente esiste. Non c'è. Però Pino Daniele sintomaticamente è il blues. C'è poco. Beh sì, ma io secondo me il blues, se non lo vivi, non ti viene fuori, quindi eccolo qua. Beh, io mi sono fermata tanti anni fa. Pino Daniele io l'amavo tantissimo prima, poi dopo l'ho perso un po' perché ha cambiato un po' genere, allora io ero molto legata al suo ai primi dischi. E quindi sì, però queste aperture che ho fatto è un caso, però sono tutti napoletani, che ho quasi tutti. Paolo Benvenu, che non è napoletano. Escluso Paolo Benvenu, però sono quasi tutti in questi festival a cui ho partecipato, mi è capitato di aprire, e io sono molto contenta perché poi adesso vivo in Toscana, che per me è molto a nord, però sono anche molto legata al sud e Napoli. Ma Napoli quindi è un centro musicale incredibile, fondamentalmente importantissimo. Tutti noi accompagniamo di Canto Popolare, Teresa De Sio e tante altre cose, anche dal punto di vista della creatività. Gli anni 70 c'era un personaggio che si chiamava Sean Phillips, c'erano altri musicisti molto validi, c'erano i showman, un sacco di gente molto importante. Sì, non è mica poco. No, ma infatti Napoli ha dato grandi nomi nella musica. C'era anche Figlio delle Stelle, quando non faceva Figlio delle Stelle alla Soventi, assolutamente faceva delle cose meravigliose. E poi la canzone napoletana vera e propria, se io trovo che sia bellissima, È semplice, però è un defetto. Io trovo che le canzoni d'amore napoletane, quelle proprio, sono proprio immediate, anche se una canzone si dice semplicemente io ti amo, però si dice in un modo talmente particolare e poetico che diventa proprio una... non è scontato. Quindi insomma, beh, la Napoli e la sua musica è rimasta dentro. Sì. Ci sono stato la settimana scorsa. Infatti so che sei stato a Capri, tra l'altro. Infatti, tra l'altro, ho avuto anche un problema di traffico, quindi ho chiacchierato un po' col tassista e siamo fatti una bella chiacchierata anche sulla situazione lavorativa, eccetera. Ah, pensavo che avessi spiegato come funziona il traffico a Napoli. Sì, me l'ha anche detto. È tremendo, veramente, è una cosa pazzesca, allucinante. Mezz'ora, 40 minuti dal molo alla stazione. Sì. Va bene. Sentiamo un altro pezzo da disco, cosa dici? Sì, visto che c'è questa chitarra che casualmente se l'è portata. No, da disco. Dal disco. No, Allora, sì, facciamo ascoltare Canto al mare. Proprio parlando di Napoli, forse questa canzone è un po' legata a Napoli, perché c'è il mare, perché c'è c'è un po' la musica popolare in questa canzone e nel disco, la registrazione del disco insieme a Paolo Benvenuto, che l'ha leggermente trasformata, l'ha modificata, l'ha presa, è dato una colorazione particolare. Infatti lui era l'ex di Sì. Con molto synth. Lui quando l'ha ascoltata ci ha visto proprio, l'ha accolta subito questa tradizione popolare. E quindi gli ha dato poi un contrasto fortissimo, quindi lui ha accentuato molto e ha voluto che fosse molto accentuata questa cosa popolare. Infatti mi ha fatto suonare la sua chitarra, una chitarra che suonava in maniera molto pesante, si sente proprio il legno in questa chitarra, e quindi voleva proprio che fosse molto acustica, molto povera com'è. E poi lui ha messo dei suoni invece molto forti, molto acuti, molto elettronici, e quindi ha creato l'ha resa da una parte un po' cupa, e poi insomma nel finale si riprende sì, perché si apre, perché poi c'è la speranza di questo, perché parla di un innamorato disperato che confida il suo amore al mare, al vento che passa, queste espressioni poetiche, e poi alla fine c'è un po' appunto il messaggio positivo del finale, il lieto fine, quindi lui ha una speranza, e quindi questa speranza si sente anche nella musica. E magari io ve la farei ascoltare un pezzo come nasce in maniera proprio nuda alla chitarra, e poi magari la facciamo ascoltare nella versione con Paolo Benvenu. Ok, va bene. Blue Time. Solo davanti al mare io ti penso, di tutto il male che ti ho fatto ora patisco. Perdonami se penso alle distanze, perdonami, io t'amo e t'amerò. Non conoscevo lacrime e dolore, adesso brucia tutto il mio tormento. Perdonami se penso alle menzogne, perdonami, io t'amo e t'amerò. Fermo, osservo il cielo in piedi, ascolto il vento, raccontami di storie che non so,

Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sì, questo è un pezzo bellissimo. Grazie. Pezzo, a me è piaciuto moltissimo. Io e il nostro, anche Alberto, l'ha sentito oltre a Agostino. È piaciuto enormemente perché questo gioco tra la voce bella, la voce popolare, questa ballata popolare da parte sì. di Liana e gli inserimenti di Paolo Benvenu che l'ha trasformata a suo piacimento, nel senso positivo del termine. Ma qui c'è una cosa interessante, un progetto interessante che nasce da questo pezzo e da altri pezzi. Sì. Questa, vero Liana? Sì, perché io ho conosciuto Paolo Benvenu e grazie a un concorso che ho fatto, di cui forse prima abbiamo, sì, abbiamo accennato, sì. E questo concorso si chiama T-Rumors e con Toscana l'Associazione Toscana Musiche, la Regione Toscana, ed è un concorso molto bello perché non è una vittoria fine a se stessa, ma è un progetto che si porta avanti per più di un anno e mezzo, forse più di un anno e mezzo, è durato tanto, ora ci sono ancora dentro praticamente. E quindi da questo concorso venivano fuori 5 vincitori e questi 5 vincitori avrebbero fatto un percorso artistico con dei live in varie parti della Toscana e in più avrebbero avuto una delle giornate di lavoro insieme a dei tutor che erano Paolo Benvenu, con il quale poi ho lavorato io, e poi c'erano Ferruccio Spinetti di Musica Nuda, Antonio Aiazzi, Saletti, e poi c'era Nico Gori, Nico jazzista. Gori. Che, insomma. E quindi ogni genere aveva il suo tutor adatto. Certo. E quindi poi quando mi hanno detto che Benvenu sarebbe stato il mio tutor, io sono rimasta molto contenta e anche molto sorpresa, perché non pensavo che fossi io adatta a lui. E quindi poi in realtà poi è stato molto bello, perché quando ci siamo incontrati insomma è nato un bel feeling, e a me piace ricordarlo così, poi magari se per lui non è così non glielo chiediamo. Però magari ci sta ascoltando, magari ci sa? Sta ascoltando, allora Paolo, non dire che è stata una bella esperienza. Però insomma è stato bello, soprattutto perché insomma abbiamo passato la prima giornata che abbiamo passato assieme, lui ha ascoltato tutte le canzoni mie, non sono tantissime, quindi insomma non l'ho ucciso con... non l'hai stressato, e quindi poi lui ha E tra l'altro di ogni canzone ha fatto una recensione puntuale spiegandomele anche, insomma è stato davvero molto attento, molto professionale. E poi ha scelto, insieme abbiamo scelto, comunque lui ha avuto anche un ruolo molto importante, abbiamo scelto queste due canzoni che poi sono rientrate nella compilation finale di questo concorso del T-Rumors. E beh, quindi poi insomma lui ascoltando queste canzoni ha voluto dare in realtà poi non era previsto che suonasse anche lui, però poi insomma gli sono preso. Piaciute, allora ha detto guarda, magari se ti va metto qualcosa. Sì, perché no? Vediamo, parliamone. Beh, ha fatto talmente bene questa cosa che ne è uscito, io sai che adoro una canzone, è un capolavoro secondo me di questo disco, ed è quella E Spero, che c'è appunto lo zampino. C'è anche sì, lo zampino del Benvenuto. Del Benvenuto. Sì. Questa canzone ce la fai sentire adesso in acustico? Ve la faccio sentire in acustico. Questa sì. canzone cos'è? Ma in realtà è una canzone che è nata un po' così, un po' sospesa in realtà. È una canzone che io ricordo con molto affetto perché l'ho scritta in un periodo particolare. Ho vissuto alcuni mesi a Istanbul e quindi sono molto... Tu hai girato il mondo, sei l'Italia. Ci sei fermata un po', sei giovanissima. Hai già girato. Bisogna spostarsi perché altrimenti... Per il periodo lavoro? Altro, sì, no, in realtà io sono andata a Istanbul per un progetto con le scuole, ero in una scuola turca con dei bambini, è stato bellissimo, e quindi poi forse in quel periodo ero particolarmente ispirata, allora, però in realtà questa canzone poi non parla di Istanbul, però sono legata a questa canzone perché mi ricordo proprio la stanza dove l'ho scritta, insomma resta lì, sì, è proprio tutto lì, sì, anche la musica e anche il testo. Sì, perché poi le canzoni in realtà molto spesso vengono fuori assieme tra certo. musica e testo. Il testo ci lavoro un po' di più dopo, però almeno la buona parte sì, più o meno vengono assieme. Beh, quindi, però di cosa parla? Non, in realtà non è... Ma non so, questa non la spiego, perché poi ognuno, forse in questa ognuno ci trova la sua... sua spiegazione. Ma sì, sì. Chiaramente. Sì. L'ascoltiamo. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Quando l'alba arriverà, mi porterà le sue preghiere. E quando maggio scioglierà la neve e il suo candore. Camminerò fin tanto che avrò bisogno di dormire. E maggio presto scioglierà la neve il mio torpore. Appaiono in mente e canto, ed io sono acqua, sono aria, luce che rischiara. Vorrei ritornare a respirare l'odore dei campi di grano, guardare le foglie danzare e andare lontano, lontano. Quando il vento soffierà, mi porterà le sue preghiere, pulendo l'aria intorno, e soffierà lieve. Dolcissima, bellissima, te l'ho sempre detto, poi io grazie. Continuo a pubblicarla. Bene, anche. Non in questa versione, ma nella versione quella dal disco. Da disco, sì. Bene, grazie, mi fa molto piacere davvero. Sì Paolo, benvenuto qua, ha dato una dimensione molto delicata, non ha forzato, ha lasciato che il pezzo andasse come l'avevi immaginato te. Sì. Una dimensione proprio acustica, dolcissima, sì, delicata, sì, non ha solo con piccoli aggiunto, tocchi appena accennati. Ha aggiunto delle cose per sorreggerla. Sì, esattamente, leggermente tenerla, però la dimensione rimane com'è. Probabilmente l'ha solo leggermente toccata, però... Sì, sì, sì. No, in questa infatti lui è rimasto molto sulla linea della canzone. Sì, esattamente. Ogni tanto. Poi c'è a un certo punto entra lui con la voce nel sì, coro finale. Esattamente. Però si resta... Perché doveva essere così, non poteva essere cambiata. Ma infatti lui quello che mi ha detto... Cosa ti ha scritto quando l'ha sentita? Ha fatto una piccola recensione? Cosa t'ha detto? No, in realtà le recensioni erano tutte orali. Ah, tutto... purtroppo non sono rimaste scritte. Potevi registrarle, quindi posso anche mentire. Ha detto che è bellissima. No, lui infatti mi ha detto questo, che è così, che era così, non doveva essere cambiata, non doveva essere toccata, e quindi ha detto cercherò di essere proprio minimale, e infatti è stato minimale, non ha Te la sto tenendo in sottofondo, la sì, senti? La stiamo sentendo in sottofondo. versione con Benvenue. Sì, no, bella, anche a me è piaciuta. Mi è piaciuta quando insomma mi ha fatto ascoltare le sue aggiunte, mi sono piaciute. Le sue aggiunte dal vivo, adesso non so se Paolo Benvenue, se tu fai concerti dal vivo, se lo, ti seguirà, eccetera. Come la potevi, come la puoi immaginare dal vivo un pezzo simile, come l'hai presentata stasera da noi? Beh, con arrangiamenti. Sì, dici? Esattamente. Beh, questa canzone è stata arrangiata anche con un violoncello. Che, con sta, un che ci stava benissimo. Sì, sì, sì. No, con, non contro un contrabbasso, no, ho sbagliato, con un basso, un basso, un basso elettrico. Un basso elettrico. Sì, perché poi ci sta bene un basso elettrico, sì, che ha una. Da una base continua, sì, nella, soprattutto nel ritornello che fa, cioè, leggermente quella, ipnotico. Leggermente. Sì, esatto. Sì, sì, sì, sì. Infatti il bassista con cui ho suonato, che tra l'altro faceva parte anche lui di questo concorso, quindi la cosa bella è stata anche che poi ci sono create delle collaborazioni. Lui si chiama Giulio Angori, è un bravissimo bassista e contrabbassista jazz, e quindi lui l'ha pensata così e l'ha fatta un po' ipnotica, sempre molto delicato, sì, molto, sì, senza minimale, mai forza. Però resta questo tappeto un po' sotto che dà questa continuità, mentre poi la melodia si alza e si abbassa, il, certo, basso resta sempre. Sentiamo gli ultimi 60 secondi. Ok. E soffierà. Soffierà e soffierà una gran bella atmosfera. Beh, sì, questo è il merito di Paolo, non è... per l'atmosfera finale, sì, sì, è merito suo. Questa soffierà lieve, è un soffio lieve praticamente. Beh, sì, sì, sì. È proprio lì, sì, sì, per antonomasia doveva essere così. Sì, sì. Ovviamente. Senti Iliana, quando sei a casa da sola cosa ti ascolti? Beh, ascolto un po' tutto quello che mi capita. E da cantautori, cantautorato classico, vecchi cantautori, De André, De Gregori, però ascolto un po' quello che capita, quello che mi propongono, tutto quello che mi arriva io cerco di ascoltarlo, ascoltiamo, e poi faccio una selezione, una cernita in base ai miei gusti chiaramente, e ascolto tutto. Tranne non riesco ad ascoltare il metal, il heavy metal, ma perché non riesco, cioè non ho la... Dopo chiudiamo le porte allora, dopo di noi, perché c'è l'heavy metal. Sì, ma perché non sono all'altezza di capire. No, è perché è un po' lontano dai miei gusti, però, certo, certo, però insomma, altrimenti ascolto tutto. E un artista che sto ascoltando molto ultimamente è un bravissimo cantautore che viene dalla musica elettronica, è un DJ lui, che però è un bravissimo musicista, lui si chiama Fink, è inglese ed è veramente bravo, e una cosa che mi piace molto è come lui suona la chitarra, un modo particolare di suonare la chitarra, una sorta di bluesman però con intrecci elettronici, e davvero ha degli orizzonti musicali davvero ampi, e poi ha anche una bellissima voce. Lui ultimamente mi sta piacendo. Mi sta piacendo molto, sì, lo sto seguendo molto. Tre dischi che non possono non esserci nella tua discografia. Guarda, e forse ora si è uno di Fink, che è questo qui che parlavi poc'anzi. forse, ma ce ne sono diversi di Fink, diciamo Sort of Revolution, e poi c'è Nero a metà, Pino Daniele. Beh, quello è uno storico, un disco scolto, storico, sì. Di Pino. E un terzo disco, aiuto, ora vediamo un po'. Caspita, mi cogli impreparata, aspetta, fammi pensare. È per quello che ti do. terzo perché disco, poi quando, forse, sì. No, quando finiamo la trasmissione te ne vengono in mente 50. Sì, è lo sempre so. Così. Lo so. La Llorona mi viene in mente ora per cambiare genere. Insomma, abbiamo il blues elettronico, poi c'è il vecchio Pino Daniele e poi la musica sudamericana. Io l'ho sentita quel pezzo lì al concerto di John Baez con una chitarrista francese. Ha emozionato. Cantava in spagnolo. Sì. È bellissimo, è un pezzo molto bello quello là, che è poc'anzi detto, insomma. Va bene, e adesso cosa ci proponi? C'è qualcosa dal vivo? Vuoi proporci? Allora, vi posso... Che cosa abbiamo fatto? Allora, le canzoni del disco... Ti manca quella in francese? Ah, sì, grazie del suggerimento. volevo tornare un attimo però, perché mi sono ricordata. Forse dovrei ricordare delle persone e fare dei ringraziamenti per questa possibilità di aver suonato con Paolo Benvenu. Quindi volevo ringraziare Toscana Musiche e in particolare il direttore Gianni Pini, poi Alice Chiari, Roberta Vannocci, che sono stati molto carini con me, sempre presenti, insomma mi hanno sempre tenuto in considerazione per varie cose. E poi dietro c'è anche l'etichetta storica di materiali sonori di Gian Piero Bigazzi. Insomma, queste persone io le devo citare perché sono molto importanti in questo progetto. Ecco, e quindi ora vi faccio ascoltare invece una canzone che ho scritto in francese. E magari dopo... Come mai l'hai scritta in francese? Ecco, l'ho scritta in francese perché partecipavo a un concorso. Sì. A un concorso di corsa proprio, l'ho visto all'ultimo momento, mancava una settimana, ed era un concorso bellissimo che si chiamava perché quest'anno non è stato fatto, Io Farnetico, organizzato da un'associazione che lavora con l'ambasciata di Francia e che organizza il Festival Suona Francese in Italia, e che è un festival molto bello perché porta artisti francesi emergenti e famosi a suonare in Italia. Fanno circa, non so, 150 concerti in questo festival, insomma è una cosa bellissima, e c'è un bellissimo movimento in quell'ambiente lì francese. E quindi c'era questo concorso con l'ambasciata di Francia, e una delle bisognava portare delle canzoni proprie, però una canzone doveva essere in francese. Allora, siccome si vinceva un concerto a Parigi e poi si vincevano delle all'opera magari pezzo... no, però anche in un locale molto bello di Parigi, allora ho pensato che era un'occasione che dovevo sfruttare. Allora avevo una vecchia canzone molto romantica, perché poi in realtà di canzoni d'amore ne ho poche che parlano proprio d'amore, e questa qui parlava d'amore. Forse non l'ho mai proposta perché era forse troppo smielata, non so, non mi andava, e quindi aveva un testo a metà, non era finita, insomma non ero convinta. E poi ho visto questo concorso, mi è venuta in mente questa canzone, ho pensato che fosse quello il momento giusto per terminarla e però trasformarla in francese, quindi sì. Perché era romantica, il francese è romantico, e allora... E come è andato il concorso? Il concorso fortunatamente è andato bene, quindi sono andata a Parigi. Ecco. Non ce lo dicevi. Quindi insomma è stata... Una bella esperienza. È stata una bella esperienza, anche perché insomma non me l'aspettavo, cioè l'ho fatta così al volo. Registrato la canzone, l'ho pensata in francese al volo, ho cambiato un po' di cose perché comunque anche la linea melodica l'ho cambiata, gli accordi un po' l'ho cambiata, insomma è rinata in pochi giorni, registrata, inviata, e poi È premiata. Va bene, premiata, insomma, è stata una bella festa francese, sono andata in Francia, poi ho fatto anche, mi hanno richiamato per suonare per suona francese in Italia, quindi ho affiancato una artista francese molto brava che si chiama Billy, e quindi abbiamo fatto dei concerti assieme, insomma, bello, una bella esperienza, quindi... Adesso l'ascoltiamo questa canzone, allora. Adesso l'ascoltiamo. Come si intitola? Si intitola Rêve. Rêve, che vuol dire sogno? Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentito. Marchant parmi la foule, mélancolie, je dois dans mon esprit. Mon regard un peu distrait, croisant sur le mien. Mais ce soir, je ne peux penser à autre chose. Je t'appelle et tu réponds. Vecchia amica, come stai? Je serre fort ta main. Dieu me prie et me fait tourner dans son durant cette nuit qui me conforte et me fait souffrir. Et le temps ne cesse de s'éculer, le rêve se meurt déjà. Così quando la musica è finita, il sogno muore già. Cet hiver si froid tombe la chaude neige qui m'enveloppe doucement et les pensées s'envolent. Je continue mon chemin, pas si bien que silencieux aussi. Mais ce soir tout va bien car tu es avec moi. Moi sur le bateau en mer, je voudrais partir, mais ne sais où aller. Je chercherai à naviguer au large, mais tu es là. Main dans la main et le vent qui nous caresse lentement, nous nous déplaçons parmi les ombres de la fantaisie. Ce rêve si merveilleux, je voudrais qu'il finisse jamais. Et je n'ouvre plus le ciel ce soir, je veux rester encore une fois. Je n'ouvre plus le ciel ce soir, je veux rester encore une fois. Je n'ouvre plus le ciel ce soir, je veux rester encore. Anche questa è una costruzione molto minimale, secondo me. Sì. Qui chiaramente è minimale in ogni caso, visto che siamo chitarra e voce. Sì. E c'aveva un finale leggermente jazzato, che qua non è stato possibile fare, chiaramente. Io l'ho sentita così quando l'ho ascoltata dal disco. È un bello il discorso della Francia, è interessante perché molti ascoltatori lo sanno, ma forse non tutti sanno che in Francia c'è una legge che impone sul 100%, il 50 o il 60% delle emissioni radiofoniche devono essere fatte in francese. Una legge dello Stato francese, cioè dà una visibilità maggiore alla musica dello Stato, cioè dà una possibilità ai cantautori francesi di esprimersi in maniera. In Italia questo non succede, siamo più orientati verso l'estero. Siamo esterofili dal punto di vista musicale. Beh, sì, ma poi... E poi c'è un'altra, si respira un'altra aria, cantare in francese, cioè cantare anche in italiano in Francia. Ma sì. Sì, c'è un'altra dimensione, un altro modo di approssimarsi, di avvicinarsi alla musica, secondo me. Sì, sì, è vero. No, poi loro, insomma, a parte che promuovono molto le arti, sì, in generale, poi la cultura, musica, in generale. La cultura in generale, quindi su questo loro sono comunque molto, molto avanti. E quindi sì, la musica francese in francese è molto apprezzata. Poi tra l'altro un festival francese in Italia è una cosa incredibile, esatto, e ci sì. sono forse molti più, forse in quel periodo ci sono molti più concerti di francesi che di italiani in Italia. Questa chiaro, cosa. Questo è vero. E questo esperimento in francese, ci sarà un altro esperimento in francese nel prossimo EP? Ma probabilmente... Perché Parigi è una bella piazza da andare a visitare un'altra volta. Sì, dovrei imparare forse bene la lingua, perché beh, ora... La lingua, questa canzone non ha alcuna pretesa, cioè ha delle pretese musicali, però sicuramente era un sistema per entrare. Sì, non ha delle pretese linguistiche, e quindi mi rendo conto che la pronuncia è piuttosto scarsa, e quindi insomma io credo che cantare una sola canzone in francese forse può essere perdonato il fatto di non avere una buona pronuncia, e poi cominciare a cantare in francese allora però lo devi fare bene, altrimenti poi diventa insomma uno scimmiottare, una sì. canzone francese. Al di là della canzone in francese che tu hai cantato adesso, secondo me si sentiva qualcosa di Pino Daniele nell'impostazione. Forse sì, sì. Ma forse così, sì. così nell'aria, in the air, come si dice. Ma se tu mi dici questo, a me fa molto piacere. Perché sì, vabbè, più che altro quel modo di suonare io l'ho inseguito. Quel modo di suonare, esatto, proprio tanto, quel quindi modo se suonare. Un minimo ricorda un po' sì. lui, allora va bene. A me fa davvero piacere. E comunque mi è venuto in mente che Tom Waits non può mancare. Vedi che te lo... vabbè. Te l'avevo detto, poi magari te l'avevo in mente ancora. Vabbè, ne parleremo poi dopo. Va bene, senti, progetti futuri tuoi. Bene, ora far conoscere questo EP, e quindi cercare di farmi conoscere più quanto più possibile, e quindi suonare, cercare di suonare. Hai qualche data già? Ci sono un po' di cose, ci sono un po' di date e anche dei piccoli progetti di cui ora non posso parlare. No, non è vero. No, ci sono sì, un po' di tardi, un po' di date, e insomma spero che ci siano sempre più possibilità, anche perché, per come dicevamo prima, per un cantautore emergente comunque in Italia si fa tanta fatica. Si fa fatica per qualsiasi cosa, quindi non è cioè una... Però voi avete sempre meno spazio nella però radio. Purtroppo in questo campo è molto complicato, e quindi niente, progetti futuri comunque ampliare una formazione. Al di là dell'amico bassista avrei qualche... Al di là dell'amico bassista sì, vorrei... Insomma, vorrei arrangiare un po' di brani in maniera un po' diversa, cercare delle sonorità un po' nuove, o se mi piacciono, altrimenti resterò con queste, però suonare con altri musicisti, perché poi è una cosa che mi piace molto è suonare, e soprattutto suonare con gli altri è una cosa che mi piace, mi fa crescere, quindi jazz parte da quello. Jazz vuol dire gruppo, c'è poco. Sì, infatti forse la cosa di insomma di, non sono una jazzista, però quando di poi concetto, di sì, gruppo. Sì, quando avevo iniziato, che ho iniziato appunto questa base di jazz, ho cominciato anche a fare un po' musica d'insieme, perché quello. Poi non si può fare da solo, c'è chi lo fa da solo, e Joe Pass faceva tutto da solo, tra accordi, basso e melodia faceva tutto lui, mi piaceva quella cosa lì, però è troppo complicato, e quindi vabbè, il jazz si suona insieme, e quindi ho iniziato a suonare con altri musicisti. Io facevo una fatica immensa, ero piccola, quindi loro erano grandi, erano bravi, però erano comunque stata una bella esperienza, perché mi hanno accolto molto bene. Poi ero la piccolina, quindi ero coccolata, mi facevano fare un po' di cose, mi dicevano anche che andava bene, ma io lo sapevo che non andava bene, però vabbè. E quindi sì, suonare con gli altri. Poi magari in futuro ci sarà un altro disco, si lavorerà più in là un altro disco, però per adesso bisogna portare sì, in giro la grazia e l'eleganza, quindi... Le porte sono aperte, Bene, bene, per il bene. Disco nuovo. Bene, grazie. Almeno qui a Radio Veneto. C'è una canzone, Eliana, che vorresti aver scritto tu? Ce ne sono tante. Io c'è stato un periodo che ero proprio innamorata di Vinicio Capossela, e quindi qualsiasi cosa c'erano molte canzoni di Capossela che io avrei voluto scrivere io. E c'è ancora una cover di Vinicio Capossela che faccio, che è Pena dell'Alma, che in realtà poi non è proprio sua originale, quindi... Ce la fai 30 secondi? Ah sì, e quella è una di quelle canzoni che quando la presentavo dicevo sempre questa è una canzone che avrei voluto scrivere io, che purtroppo non avevo la sensibilità per farla. Un minuto. Che farò tanta te, pena dell'anima, senza vederti, senza averti né guardarti, anche lontano non vorrò dimenticarti, anche se ormai è impossibile il nostro amor. Come levare via il profumo, il fiore, come togliere al vento l'armonia, come negar che ti amo, vita mia, come levar dall'anima questa passione, vedere che crudel destino ora ne viene, ma che l'ombra ora ci prenda più mi addolora, il mio cuore mi dice che non può seguirti ancora, e nemmeno questa angustia sopportar. Come levare alle stelle via il bagliore, come togliere la vita che soffre il petto mio, come levar dall'anima questa passione. Beh, ti sei comportata bene, sarà contento Capossela se la sente, sicuramente. Speriamo. Poi questa la facevo sempre, prima ancora sì, di far sentire molto bello le mie canzoni. Questa mi piaceva tantissimo, questa anche ha molto, una sonorità molto popolare. Sì, decisamente popolare, impostazione sì, tua sì. Anche quella di Capossela. Poi questa era una canzone popolare messicana, sì, che poi vero, lui sì. Ha... Anche se ne hai poco accentuato il ritmo. No, infatti poi l'ho fatta smielata più... No, di sonorità messicane. D'altronde poi la cover di una cover non deve essere uguale alla cover. Sì, questo è vero. Liana, andiamo un po' tra le nuvole? Sì, certo, che la farei ascoltare dal disco. Bene. E poi torniamo in studio. Va e bene. Ci salutiamo. Tra le nuvole, tra l'altro, è la canzone che chiude il disco. Sì. Ci vuoi dire due parole o le ascoltiamo e poi ne parliamo? No, va bene, dico due parole. Questa è una canzone così, leggera. Una canzone che ho scritto, tra l'altro, quando ero in viaggio tra Matera e Campobasso. E c'era un paesaggio bellissimo, quindi mi aveva ispirato particolarmente. E tra le nuvole perché... viaggio perché... questa si chiama tra le nuvole, tra parentesi, viaggio. Viaggio, esatto. Sì. Ma partiva come viaggio perché l'ho scritta in viaggio. Quindi così, insomma, molto banalmente l'ho intitolata Viaggio. Poi per questioni di SIAE, che c'era un altro marino che ha scritto Viaggio, quindi non andava bene, quindi l'ho cambiata, è diventata Tra le nuvole, ed è Tra le nuvole perché così è una canzone spensierata, anche se molto marina, diciamo, come testo, quindi Tra le nuvole, ma più nel mare che nel cielo. Ascoltiamo. Mi hanno detto che quando è notte e soltanto con due note potrei scrivere una canzone. E se inverto le due note, se mescolo le due note, le canzoni potranno diventare tre. Ho guardato da lontano e guardato anche da vicino, ho cambiato prospettiva, angolazione. E ho capito che per vedere il mondo come rotondo capovolgi il corpo con la testa in giù. Come soffice la nuvola su cui poggio i miei piedi e mi rilasso. Fischietto e canto. Come dolce questo canto che mi ricorda. Mi hanno detto che in fondo al mare, nel fondo del profondo mare, c'è una piccola orchestrina che suona con i pesci che danzano e stelle che illuminano. Mi hanno detto che una sirena sul dorso di una balena attraversa mille leghe sotto il mare e canta e ammalia i naviganti, cambia rotta e poi non tornano. Resto un poco a galleggiare sopra questo immenso mare, mi rilasso, fischietto e canto. Come dolce questo canto, mentre in onda il tramonto, il vento soffia e poi la sera Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, eccoci qua, sono le 22:24. Cosa ti dicevo prima in auto? Che volava il tempo. Eh beh, sì. Hai visto? Sì, sì. Sì, è volato. Bene, spero che sia volato anche per gli ascoltatori. Sì, comunque voglio esprimere tutta la mia solidarietà per loro che sono stati pazienti. Cosa volevo dirti? Sì, se qualcuno volesse contattarti, e dove si può acquistare il tuo disco? Ecco, ora il disco è disponibile online, quindi sui principali store online che sono iTunes, Google Play, Amazon. Si può ascoltare anche in streaming su Spotify. E per il CD fisico non è in distribuzione nei negozi, quindi se qualcuno lo volesse mi può contattare tramite il sito che è lianamarino.it e... senza www, se si scrive www.lianamarino.it non ti trovano. No, non mi trovo, quindi non so perché. L'amico Paolo Sapio che mi ha fatto il sito non mi ha spiegato perché. E quindi sì, da lì poi ci sono i contatti, quindi mi possono, se vogliono, contattarmi da lì, oppure se hanno curiosità ci sono, c'è la pagina Facebook, c'è YouTube, da cui si possono ascoltare e vedere un po' di cose che ho fatto. E beh, comunque in qualsiasi modo, se si digita Liana Marino su Google, sì, vengo fuori io. Sì. Perfetto. Liana poi ha citato una cosa mentre il pezzo andava, la difficoltà di fare un pezzo simile. Non è, il fischio non è suo, è di Omar. No, il fischio non è mio. Di Omar, fischio. Omar che suona in alcune di queste canzoni. In questa canzone, nella Grazia e l'Eleganza, c'è la sua chitarra classica, e in questa canzone c'è anche la sua voce al finale e il suo fischio prezioso, perché... Sì, perché però cioè, ero bloccata. Avevi tentato, ma non eri riuscita. Sì, cioè, stavo, quel giorno ero stanca. E quindi... Sì, è una canzone, sembra semplice dal punto di vista musicale, è semplice dell'ascolto, ma non è proprio semplice per farla, vero? Non è semplice, sì, infatti c'è questo contrasto tra la leggerezza del testo e della melodia, e poi c'è... È leggero, sicuramente è leggero il giro di accordi, sì. Però è anche abbastanza complicato, perché poi sono accordi un po' complicati o che si muovono molto velocemente, quindi... Però è molto divertente suonarla, quindi mi piace sempre farla dal vivo. E poi c'è la mia chitarra acustica che saltella molto, e poi c'è la chitarra di Omar che crea dei movimenti come delle onde. E poi d'altronde questo è un pezzo marino, quindi lui gli ha dato queste onde marine. Liana, noi ci salutiamo qui. Sì. È finito il tuo spazio. Già finito. Già finito. Però insomma, no, è inutile che te lo dica, ma insomma, a parte ormai siamo in contatto io e te, però insomma, quando avrai qualche altra produzione tua, se ti fa piacere, ovviamente insomma, le porte qui sono sempre aperte per te. Bene, verrò molto volentieri. Insomma, continua su questa strada, perché ti ripeto, il disco è veramente molto molto bello. Beh, grazie sono grazie di aver accettato l'invito. Beh, no, grazie a voi di avermi invitato e ospitato. Sì. Con che cosa ci saluti? Allora, vi saluto con una canzone d'amore, una canzone romantica, e si intitola Complici. Complici. Sì. Maurizio, noi ci diamo l'appuntamento la settimana prossima. Sì, giovedì prossimo noi con riprendiamo. Con Teodasia, sì, rock a tutto spiano. Esattamente, è ritornato dopo un mese di ferie, Renato, finalmente dopo un mese di ferie è ritornato. È ritornato il metallaro, quindi non cambiate assolutamente sintonia né frequenza. Ah no, bisogna ascoltare la musica metal. Heavy metal, al rock di Renato Ferro. Bene, i programmi quindi continuano con questa musica. Noi intanto ci ascoltiamo l'ultima canzone di Liana Marino e l'appuntamento è per la settimana prossima, sempre qui a Blu Radio Veneto, sempre alle ore 21, cioè giovedì, con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara. Ma tu ci sei anche lunedì? Quando ci sei? No, lunedì riposo, cioè martedì. Torna Stefano da Inese, e martedì, mercoledì e giovedì. E giovedì. Va bene, buon proseguimento all'ascolto dei programmi che continuano sempre con la musica, la più bella musica possibile qui a Blu Radio Veneto. Intanto l'ultima canzone di Liana Marino. Bene, grazie. Allora io saluto tutti i radioascoltatori, allora a questo punto, grazie. Muta e stanca senza più la forza di lottare, una porta chiusa e un corridoio buio da camminare, occhi tristi bagnati dal pianto e una spina nel cuore. Bella sei come il primo giorno che di te mi innamorai. Sarai felice, sarai felice, sarai felice anche senza di me. sarai felice, e sarai felice, e sarai felice anche senza di me. Due complici temerari e indissolubili che ci lasciamo seguire ma senza riconoscerci nella penombra tormentata, noi siamo complici nella penombra tormentata, noi siamo complici. Sarai felice, e sarai felice, e sarai felice anche senza. Sarai felice, sarai felice, sarai felice anche senza di me.